Ma sicuramente ho apprezzato lo stile istituzionalmente corretto, la disponibilità ad una legislatura di riforme che ci auguriamo sia davvero all'insegna della condivisione, al contrario di quello che è avvenuto in passato anche ad opera del centrodestra che da solo aveva cambiato la Costituzione. Noi l'abbiamo detto in campagna elettorale, vogliamo fare le riforme, vogliamo riformare anche la legge elettorale, le riforme si fanno insieme perché la Costituzione è di tutti. Ci auguriamo che questo avvenga. Ho apprezzato anche il riferimento al 25 aprile e al 1 maggio, sono due feste fondamentali nella vita della nostra democrazia, fondamento della nostra vita democratica, ed è chiaro che debba crescere la condivisione intorno a queste due ricorrenze.